edizione. E cominciamo col cinema. Questa mattina, prima edizione. Ci siete. Mette i soldi sul tavolo. Benvenuto. Le carte possono illuminare il suo futuro. Sento che è in pericolo. In verità preferisco leggere il suo futuro. Ed eccolo il film che ha fatto il boom nei cinema italiani aprendo la stagione di Natale, Sherlock Holmes. 2 anni fa il primo capitolo aveva sfiorato i 20 milioni di euro, nel weekend il secondo capitolo ha già incassato 3 milioni e mezzo di euro. Secondo a distanza Il gatto con gli stivali, solo terzo e quarto i due italiani, per ora una lieve prevalenza di Leonardo Peraccioni sul cinepanettone di De Laurentiis, cifre per entrambi però non esaltanti, attorno al 1.600.000 euro. E allora cosa vedremo al cinema in queste vacanze di Natale? Nella top 10 resistono anche Il giorno in più, tratto dal romanzo di Fabio Volo, e clamorosamente ancora Ligabue Campovolo, il film, il successo che spinge il produttore a immaginare nuovi progetti sempre insieme a Luciano. Spero il prossimo step potrebbe essere in realtà un ritorno a tecnologie più tradizionali per un racconto on the road, un documentario per raccontare un po' lo svolgimento di un tour, cercando di raccontarne anche i lati fuori dal palco. E poi anche l'appetito che mangiando con questo film ci è venuta voglia di provare a fare un altro più tradizionale insieme a Marco Salom, stiamo lavorando su diversi progetti, tra cui uno da sviluppare negli Stati Uniti, una commedia rivolta più, diciamo, a livello internazionale, ma è ancora tutto allo studio. Tant'è. Luciano Ligabue è ancora settimo in classifica dei film, questo nelle sale, questo è il primo assaggio del cinema natalizio. E solo il primo assaggio anche per prima edizione, tra pochissimo le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Ed eccoci, ancora buona giornata da Anna Migliorati, martedì 20 dicembre, pronti coi quotidiani in edicola per cercare di capire quali sono i temi che ci attendono in questa giornata. Allora, quotidiani che sostanzialmente puntano su 3 notizie. La prima riguarda da una parte la manovra, dall'altra i prossimi progetti del governo con gli scontri tra governo e sindacati, notizia per la verità declinata in maniera diversa dai quotidiani, ma che domina comunque le prime pagine nei suoi vari aspetti. La seconda notizia è ancora la Corea che piange la morte di Kim Jong-il, con tutte le tensioni anche qui sullo scacchiere asiatico per la successione, e poi il calcio scommesse con il blitz di ieri di cui anche noi vi abbiamo raccontato in diretta. Oggi dicevamo prima in GR24 cominceranno anche gli interrogatori. Cominciamo con la Repubblica, dicevamo apertura dedicata alle questioni politiche sindacali, declinata in questo caso con attenzione, come già faceva ieri la Repubblica, sull'evasione fiscale, tema sul quale ormai lo sapete a Radio 24 da qualche mese noi stiamo insistendo parecchio. Fisco, via al controllo dei conti correnti, questa apertura della Repubblica, ecco il supercomputer contro l'evasione che elabora 22.000 informazioni al secondo. Che succede? Succede che il governo setaccerà i conti correnti per stanare il più possibile gli evasori fiscali e quindi recuperare gettito così. Spiega la Repubblica come funzionerà questo megacomputer. Questo nelle ore in cui c'è la rivolta invece dei sindaci della Lega che dicono noi l'IMU, la tassa sulla casa, non la faremo pagare. Altra notizia sempre dalla Repubblica, centropagina, un'intervista, vi segnalo, al ministro della giustizia Severino, mai più norme ad personam, dice la Severino, e vanno cambiate, dice, le leggi anticorrotti, una svolta annunciata dal ministro della giustizia. A centro pagina ancora l'immagine è quella di Kim Jong-il, la Corea piange il suo tiranno tra lacrime di massa e paura del nucleare, così segnala la Repubblica. Fondo pagina, calci scommesse, la grande retata, 17 arresti, Doni tenta di fuggire, continuavano a truccare le partite nonostante l'inchiesta partita un anno fa. Corriere della Sera, anche qui l'immagine è quella di Kim Jong-il, anche qui tutti i particolari sull'inchiesta calcio scommesse, ecco tutte le partite di A e B che siamo riusciti a troccare, i verbali del pentito, perché c'è anche un pentito in questa inchiesta, lo rivelano questi verbali pubblicati oggi dalla Repubblica. Si tratta di Wilson Rai Perumal, un signore di Singapore che lo scorso febbraio è stato fermato in Finlandia con l'accusa di aver truccato le partite del campionato locale e che lì ha rivelato le ramificazioni italiane dell'organizzazione di cui fa parte. Parte dunque dalla Finlandia, da questo signore di Shanghai, e tutti i verbali li trovate questa mattina pubblicati sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che però, dicevamo, apre ancora sulla crisi puntando su un altro aspetto, la questione che sta cavalcando parecchio il Corriere della Sera. L'altro giorno l'intervista al ministro Fornero, ieri la durissima intervista, l'abbiamo letta anche insieme, al segretario della CGIL Susanna Camusso, che ha accusato duramente il ministro Fornero. Oggi scrive il Corriere della Sera: Fornero reagisce e accusa, contro di me il linguaggio di un brutto passato. Così il ministro del Welfare dopo la dura intervista della Camusso su Lavoro e Articolo 18. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, che a fondo pagina rivela anche un'altra curiosità che in qualche modo ha a che fare con la crisi: divorzio senza liti per sfuggire al fisco. Che succede? Che i coniugi sempre più cercano di mettersi d'accordo. Perché? Perché se non c'è l'accordo i coniugi dovranno rivelare il proprio status economico e anche così il governo tenta la lotta all'evasione fiscale. Il Sole 24 Ore sull'articolo 18 è subito scontro nel piano del governo: tutele estese a tutti e uscite meno rigide per nuovi contratti. Questi sarebbero i piani del governo su cui dicevamo c'è lo scontro Camusso-Fornero sull'articolo 18, li rivela il Sole 24 Ore, dal quale vi segnaliamo anche un'altra notizia. Sarebbe veramente in arrivo il maxi concorso nella scuola, di cui parlavamo anche ieri. 12.500 posti in cattedra, col ministro Profumo in questo caso che dice nel 2012 torneranno le selezioni, 300.000 i candidati interessati delle scuole elementari, medie e superiori. Tutti i particolari li trovate oggi sul Sole 24 Ore, che attenzione pubblica oggi anche il test dei costi: quanto costa la manovra a ciascuno di noi, l'impatto sui nostri conti, come calcolarlo. La Stampa, anche qui apertura dedicata sempre agli stessi temi, declinata però su un altro aspetto, ed è quella della nuova ICI, la IMU, la rivolta della Lega, così titola La Stampa. Lavoro e scontro sindacato e governo, Bersani, lasciamo fuori l'articolo 18 perché su questo davvero sta scoppiando la bufera. Poi ancora anche La Stampa, scommesse, 17 arresti, Doni voleva fuggire, e una storia dalla Stampa: la Vespa torna a casa 35 anni dopo. La storia di una Vespa che sparì a Catania nel 76, dal furto al ritrovamento, un pezzo di storia d'Italia. E chissà dove state in tutti questi anni. Questa mattina la storia, dicevamo, sulla Stampa. Ancora il Messaggero: scontro governo sindacati, questa è l'apertura, il dibattito sui licenziamenti, dicevamo, è davvero acceso. Anche qui la fine del caro leader per quanto riguarda la Corea del Nord, ma c'è un'altra notizia che vi segnalo invece dal centro pagina del Messaggero: rapina in piazza di Spagna, banditi travestiti da vigili urbani. Che è successo? È successo che c'è stato un assalto in banca con un bottino da 250.000 euro, ma è avvenuto in piazza di Spagna proprio mentre c'era lo shopping natalizio romano. Nessuno si è accorto di nulla e tranquilli tranquilli i rapinatori sono fuggiti a piedi tra la folla. Succede anche questo. Ma quello che vi sentiamo invece sentire ora, come sempre il nostro stacco, la musica ci aiuta a voltare pagina, è una cosa in esclusiva che potete sentire solo da noi. Perché? Perché a Milano ieri c'è stata una nuova udienza del processo David Mills con Silvio Berlusconi indagato. Le TV non sono ammesse in aula. Ieri ha deposto l'avvocato David Mills in videoconferenza. Non sono ammesse le TV, ma c'era invece la nostra Raffaella Calandra che ha rubato qualche audio di ciò che succede nell'aula di tribunale dove è in corso il processo Mills. Naturalmente è un'aula di sala da tribunale, ma in qualche modo noi vi facciamo sentire cosa è accaduto ieri. E così vi abbiamo fatto anche sbirciare quel che accade in qualche modo dal buco della serratura, mettiamola così, quel che accade nelle aule di tribunale a Milano. Ve lo racconteremo naturalmente ancora nei nostri GR24. Qualche curiosità dalla stampa internazionale, abbiamo pochi secondi. La generazione dei baby boomer trema. Andiamo questa mattina sul Wall Street Journal, che racconta anche questo aspetto di ciò che accade. Parliamo della fascia di lavoratori chiamati così perché considerati figli del boom economico. Ebbene, temono ora di dover continuare a lavorare ben oltre il traguardo della pensione perché non hanno messo da parte denaro a sufficienza. Secondo quanto scrive almeno il Wall Street Journal, sono oltre 4 milioni gli americani con un'età compresa tra i 55 e i 64 anni che non sono in grado di trovare un impiego a tempo pieno e quindi a rischio le loro pensioni e a rischio i loro risparmi. Il livello di povertà tra gli americani di mezza età, scrive ancora il Wall Street Journal, è destinato a crescere. Così la stampa americana. Facciamo un balzo, andiamo in Asia. Che succede? Ultime notizie: il presidente cinese Hu Jintao ha visitato l'ambasciata nordcoreana di Pechino circa mezz'ora fa. È uscito dopo aver espresso le condoglianze per la morte del leader di Pyongyang Kim Jong-il, ambasciata dove molti cittadini cinesi hanno portato fiori. Il quotidiano ufficiale cinese China Daily oggi dà la notizia della scomparsa del leader nordcoreano con questo titolo: la partenza di un amico. Questo perché sicuramente la Cina è il paese più vicino a Pyongyang, Cina che si è dichiarata scioccata e ha affermato la propria fiducia nel figlio minore d'erede, il 28enne Kim Jong-un. Spero che la mia pronuncia sia quantomeno accettabile. Lo chiediamo, andiamo in Asia, a Shanghai, da Luca Vinci Guerra. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buon pomeriggio naturalmente per te. Luca, cominciamo proprio da qui. La successione, il cambio in Corea al potere visto da lì ha un'altra prospettiva rispetto che da noi in Europa. Come visto il figlio come successore? Ma sicuramente la situazione è molto complessa, proprio perché almeno tanto quanto il paese, la Corea del Nord è un paese da un lato impoverito, affamato, frustrato dopo un ventennio di isolamento totale dal mondo. Come dicevi tu, la Cina praticamente è stato l'unico, caduto l'Unione Sovietica, è stato l'unico paese che ha continuato a sostenere la Corea del Nord in questi ultimi anni. Dall'altro però è anche un paese dotato di un potente arsenale bellico che potrebbe disporre anche di una bomba atomica o quantomeno di un embrione di bomba atomica. Quindi chiaramente è una situazione molto complessa all'interno della quale, secondo quanto appunto rivelano anche fonti dell'intelligence sudcoreana, che è l'unica che riesce un po' a interpretare cosa accade al di là della cortina del 38esimo parallelo, è difficile affidare alla gestione di un ragazzo trentenne che non ha alcuna esperienza, che diciamo dalla sua rispetto alle generazioni che l'hanno preceduto ha giusto il fatto di essere stato educato all'estero, ha studiato in Svizzera, a quanto si dice. E quindi insomma avrebbe un quadro, avrebbe sicuramente... Questo secondo te potrebbe portare ad un'apertura maggiore verso l'Occidente o ad un rischio invece ancor più di arroccamento dei militari sulle loro posizioni? Ma la partita è aperta, il problema è questo, che è un'incognita totale. La partita in questo momento è aperta, sicuramente come sempre all'interno di queste leadership che da un lato appaiono monolitiche e lo hanno anche dimostrato l'altro giorno, riuscendo a tenere per 48 ore la notizia della morte di Kim Jong-il nascosta, il che è incredibile se si pensa oggi con tutti i mezzi di comunicazione che ci sono. Sì, perché noi l'abbiamo dato ieri, ma è morto sabato, quindi... Sabato, sì, ma tutti, ma nessuno sapeva nulla, neanche l'intelligence sudcoreana, che come dicevo prima insomma, è molto attenta, che diciamo, ha diverse spie, diversi infiltrati. Quindi questo dimostra che in effetti stanno dando un'idea di monolicità che però non c'è. In realtà questo gruppo di potere, questa elite formatasi negli anni, che ruota intorno alla famiglia Kim, ai militari e a qualche altra famiglia che conta all'interno del paese, ovviamente è divisa al suo interno. C'è uno zio cognato di Kim Jong-il che sembra un po' essere il grande burattinaio dietro le quinte. E come sempre poi c'è da vedere se manterrà, come dicevi tu, la sua compattezza o se invece partiranno le schermaglie interne. Questo potrebbe essere molto pericoloso anche visto dall'esterno. Sì, pericoloso, però loro lo vogliono sicuramente evitare, perché loro, voglio dire, sono assolutamente consapevoli del fatto che l'unità in questo momento e la prosecuzione del regime è l'unica ancora di salvezza, perché diversamente verrebbero spazzati via. Qualsiasi altro evento sarebbe letale per l'attuale elite al potere. Quindi sicuramente cercheranno di trovare un accomodamento che appunto potrebbe vedere in Kim Jong-un, il terzo genito del leader appena scomparso, il futuro premier nordcoreano. Però ecco, oltre questo è davvero difficile fare previsioni. Sicuramente la Cina è l'unico paese al mondo che potrebbe giocare un ruolo in questa transizione. Grazie a Luca Vinci Guerra. Allora naturalmente ci risentiremo nelle prossime mattine per capire cosa succederà e come andrà avanti. Grazie nel frattempo, buona giornata a Luca Vinci Guerra. Prima edizione. Io lascio spazio a Daniele Viacchessi. Italia in controluce. È il 20 di dicembre e vi parla Daniele Viacchessi. Questa è la storia di magistrati nel mirino delle mafie, Sabrina Pisu. Pasquale Di Fiora cominciava a collaborare a settembre di quest'anno, qualche mese fa, e a parlare di un progetto di attentato nei confronti miei e di alcuni appartenenti all'arma dei carabinieri di Castello di Cisterna per indagine sul territorio di Acerra. Un territorio particolare, perché benché sia solo un comune della provincia di Napoli, è particolarmente ricco dal punto di vista economico, perché c'è una zona industriale, c'è il depuratore e ci sono tutta una serie di attività economiche su cui insistono quattro clan. Vincenzo Donofrio è pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I clan camorristici di Acerra lo volevano uccidere a colpi di bazooka, un attentato esemplare che si sarebbe consumato sulla rampa autostradale, lo avrebbero colpito sulla sua automobile mentre si dirigeva a casa. A rivelarlo è Pasquale Di Fiore, collaboratore di giustizia ed ex esponente dell'omonima cosca. Il pentito racconta che è stato il boss Giuseppe Di Iorio a volere un'offensiva contro i carabinieri di Castello di Cisterna e contro il PM Vincenzo Donofrio, perché aveva dimostrato un particolare accanimento da distruzione di massa nei confronti dei clan. Nell'arco di 2-3 anni, negli ultimi 2 anni, attraverso le indagini su quel territorio sono stati riusciti praticamente a condannare tutto il GOTA di tutte e quattro le organizzazioni che esistono su quel territorio, come mai era successo prima. I capi sono stati condannati all'ergastolo, i gregari sono stati condannati a decine e decine di anni di reclusione, e quindi c'è stata una sorta di fibrillazione nell'ultimo anno nei confronti di coloro che quella situazione dal punto di vista giudiziario erano riuscita a scardinare attraverso indagini, attraverso poi condanne che raramente arrivavano in quel territorio. Il clan di Fiore De Falco era quello più giovane e più spregiudicato da questo punto di vista, e quindi aveva organizzato dal carcere, siamo alla fine dell'anno scorso, agli inizi di quest'anno sostanzialmente, questo progetto di attentato, prevedendo la scarcerazione di uno dei loro killer più sanguinari in modo da poi realizzare questo tipo di agguato. Da 19 anni Donofrio è pubblico ministero, prima a Reggio Calabria, poi a Napoli, dove dice è in atto una strategia terroristica da parte dei clan. Intimidazioni se ne ricevono quotidianamente, in ogni momento di ogni secondo dei processi, perché i processi di camorra, di mafia, di 'ndrangheta sono dei processi particolari in cui c'è una pressione continua all'interno delle aule di giustizia da parte dei detenuti, da parte del pubblico, intimidazioni ne avevo ricevute e come me ne dicevano quotidianamente tutti i colleghi che si occupano di criminalità organizzata. Prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi alle 13.30 per la seconda puntata del viaggio sui pretacci. Grazie Daniele Biacchessi, noi con prima edizione come sempre torniamo alle attualità di queste ore. Allora, un'agenzia appena battuta in questo istante, arrestato dalla Guardia di Finanza di Belluno il primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pieve di Cadore. Chiedeva tangenti, secondo le accuse, ai pazienti per far saltare le liste d'attesa della procreazione assistita. Gli aspiranti genitori chiedeva fino a 2.500 euro, riducendo a pochi mesi in cambio le liste d'attesa. Così, operazione in corso in questi minuti. E parliamo d'altro. Sono passati invece 5 anni dalla notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2006, quando il medico Mario Riccio aiutò Pier Giorgio Welby a morire. Una battaglia e una polemica che da allora va avanti, che da allora non è finita. Insomma, già 5 anni, verrebbe da dire. La moglie di Pier Giorgio Welby, Mina Welby. Era veramente un salto, anche per me è passato molto molto in fretta, anche perché non avevo nemmeno il tempo da rivoltare casa. Ecco, casa è ancora così come Piero l'ha lasciata, tranne che ho tolto l'acquario, poi è morta mamma 2 anni dopo di lui, stesso giorno, quasi come lei voleva: Piero, vienimi a prendere. Sono stati 5 anni densi. Molto densi, sì. Naturalmente noi facciamo adesso questa forte battaglia per una buona legge che adesso sappiamo che c'è il DDL Calabrò in terza lettura in Senato. Non sappiamo che fine farà. In questo periodo si parla tanto di crisi, di misure anticrisi. Ci sarà spazio per discutere anche di questi argomenti? Assolutamente, perché non c'è soltanto una crisi finanziaria, c'è proprio una crisi culturale. Suo marito le ha lasciato una grossa eredità, le battaglie da combattere. Ma sì, cosa le manca invece di lui? Di lui mi manca lui, ecco. Però la sua persona, il toccarlo, il suo corpo, il suo fisico, ma comunque io credo che avendo ereditato da lui il suo detto dell'ultimo pomeriggio, il talibano deve andare avanti, io credo tante volte non mi sento nemmeno che mi manchi, perché posso fare io quella battaglia che ho fatto lui, forse lui lo farebbe molto meglio di me. Io subito dopo la sua morte pensavo: ma che cosa, come devo andare avanti? Comunque poi piano piano le cose sono venute a rotolare, perché io potevo queste cose giuridiche e mediche esprimerle con la mia esperienza, come noi l'abbiamo vissute. 5 anni fa lei si preparava ad un addio, immagino anche umanamente difficile. Ci sono state tante polemiche, tante discussioni. C'è sì. Qualcosa che tornando indietro farebbe diversamente? Assolutamente nulla. No, forse una cosa, perché io fino a 3 giorni prima incitavo Pier Giorgio di aspettare, di fermarsi, ho anche litigato con lui, come voi sapete anche dal mio libro che ho scritto, litigato veramente di brutto, ho avuto un attacco isterico quella volta, perché non volevo che lui se ne andasse, morisse, mi sentivo abbandonata, ecco. E lui poi mi disse: no, tu l'hai fatto sicuramente perché mi volevi bene e ti perdono, io sono stato felice e tu? Io ho detto sì, anch'io sono stata felice, e gli ho chiesto scusa, gli ho chiesto perdono di aver provocato un'altra volta la sua, il suo percorso di morte, mentre l'aveva già iniziato e l'avrebbe potuto finire entro 5 minuti se non avessi chiamato in tempo l'ambulanza nel 97. E lì, tornando indietro, avrebbe agito diversamente? Ma non credo, perché io sono io e non credo che le cose si possano correggere quando non si sanno prima. Credo di no, ma io sono contenta che sia andata così, perché solo in questa maniera abbiamo potuto fare la nostra battaglia. 5 anni dopo, che traguardo pensa di aver raggiunto? Il traguardo della sincera discussione dei cittadini anche sul morire. Io non dico il diritto di morire, ma il diritto di non soffrire, questo credo che sia la cosa giusta a dirlo. Grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi tanto tanto. E comunque la pensiate, sono passati 5 anni, da 5 anni ne stiamo discutendo. Subito dopo la viabilità cominciamo invece il nostro Radio Day. Prima edizione. E ripartiamo dunque alle 6:44 minuti, ancora buona giornata, buon martedì da Anna Miglioratti. Ripartiamo, dicevo, parlando di crisi. Radio 24 Day. Lo faremo per tutta la giornata, oggi e domani, quando sentirete questa sigla, la sentirete spesso nel corso della giornata. Perché? Perché è il nostro Radio Day dedicato alla crisi, perché vogliamo capire quali sono ad esempio i termini, le parole che dobbiamo conoscere in questa crisi, ma anche quali sono le ricette possibili. Saranno molti gli appuntamenti tra oggi e domani che costelleranno i programmi di Radio 24. Comincia ora alle 6:45 minuti il primo appuntamento con i Radio Day, subito con il primo ospite, che è il direttore generale di Banca Carige, Ennio La Monica. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, una delle accuse, entriamo così subito nel vivo, una delle accuse rivolte alle banche in questa crisi è quella di non dare ossigeno alle imprese con la stretta del credito. Com'è il rapporto con gli imprenditori? Direi che noi in questa fase stiamo proseguendo quello che stiamo facendo dall'inizio della crisi, che ormai ricordiamola è del 2007. In tutto questo periodo la banca, come gran parte del sistema bancario italiano, ha continuato a supportare le imprese, e vorremmo anche in questa fase un pochino più complicata che quella precedente, poi magari ne parliamo per il tema della liquidità, continuare a difendere proprio il flusso di credito all'economia, che ricordiamo sono imprese e anche famiglie, perché anche le famiglie per i loro progetti di investimento, in particolare sulla casa, hanno bisogno di credito. Quindi noi oggi stiamo continuando ad avere delle crescite nel nostro portafoglio crediti, perché continuiamo a finanziare e erogare sia imprese che famiglie, come dicevamo, pur avendo in questi ultimi mesi, direi a partire da aprile-maggio, una situazione più complicata sul fronte della liquidità internazionale e nazionale, che inevitabilmente si ripercuote anche sulle banche. Ecco, lei diceva giustamente anche le famiglie, è cambiato il rapporto con i correntisti? Direi che quello che noi abbiamo visto è che c'è una grande consapevolezza, sia per quello che riguarda le imprese, sia per quello che riguarda le famiglie. Io parlo ovviamente dell'Italia, della nostra situazione, quindi questa grande consapevolezza rende molto più semplice, pur nelle difficoltà, avere un rapporto chiaro, trasparente, e le imprese stesse in particolare si rendono conto che in questi mesi, se abbiamo dovuto in qualche modo essere più selettivi e anche in qualche caso aumentare il costo del credito, era perché dall'altra parte ce n'era meno disponibile. Il problema della liquidità non è tanto che non c'è liquidità nel mondo o in Europa o in Italia, il problema è che circolava poco, quindi non circolava tra le banche ed era difficile approvvigionarsi, i finanziatori esteri non acquistavano più o comunque in modo molto molto limitato titoli bancari, obbligazionari bancari, e quindi la difficoltà di avere questi fondi faceva sì che le condizioni di credito in questi ultimi mesi sono diventate più complesse. Ma devo dire che il rapporto è molto positivo. Io ho visto che in questa crisi anche le stesse imprese sono consapevoli delle difficoltà. Ecco, qual è la domanda che vi viene rivolta più spesso? La domanda che riguarda più spesso è proprio questa considerazione, questa sorta di paradosso di come mai, con tutta la liquidità che è stata creata nel mondo in questi anni, a partire dalla Fed in poi, come mai non ci sono soldi? Ed è una domanda effettivamente a cui in parte sembra difficile da rispondere, se non per quello che le dicevo prima, che le problematiche a livello di stati sovrani in Europa, tra cui anche l'Italia, ha reso meno facile per le nostre banche ottenere finanziamenti dai fondi di investimento, fondi pensione degli altri paesi che investivano normalmente in Italia. Non essendoci più questi investitori, tutte le banche italiane hanno dovuto far far fronte ai propri impegni raccogliendo depositi presso la clientela italiana, e grazie al cielo che è una clientela, sono cittadini che hanno nel risparmio un grande valore, perché se l'Italia non avesse questo grosso, diciamo, valore, questo grosso asset che è il risparmio dei propri cittadini, avrebbe avuto più difficoltà, mentre invece grazie a questo siamo riusciti anche quest'anno, nonostante non arrivassero fondi dall'estero, a finanziare le aziende, però è chiaro che le disponibilità erano minori. Ecco, voi siete un po' anomali del panorama bancario italiano, perché siete il quarto gruppo in Italia con un panorama che vede un meno 48% nel settore. Voi nel triennio 2008-2009-2010 avete visto un più 25% di utile. Come si fa? Ma diciamo che noi siamo una banca, come grazie al cielo ce ne sono molte anche in Italia, molto tradizionale, nel senso che facciamo un lavoro molto, che ha una lunga storia, quella di raccogliere il risparmio dei nostri clienti e investirlo nelle aziende, nelle famiglie che sono altrettanto clienti. Quindi non abbiamo mai fatto avventure particolari nel mondo della finanza, siamo stati abbastanza lontani da tutto quello che in questi ultimi anni ha dato un po' di dispiaceri, no? Dai titoli strutturati ai derivati e quant'altro, e quindi siamo riusciti a mantenere un percorso di crescita molto equilibrato anche negli anni più difficili. Abbiamo dovuto tirare un po' la cinghia, perché è chiaro che bisogna lavorare anche sul fronte dei costi, perché come in una qualsiasi famiglia una sana prudente gestione ti dice che se le entrate diminuiscono devi far diminuire anche le uscite, è evidente. Quindi da un lato abbiamo controllato molto attentamente la base costi, dall'altro siamo stati attenti al profilo del rischio di credito, ma questo ci aiuta al fatto di essere una banca molto radicata sul territorio e quindi di conoscere bene la nostra clientela, di poter con loro anche impostare dei piani di ristrutturazione, di allungamento del debito e quindi insomma di gestire anche le situazioni di difficoltà che venendo anche da una regione come la Liguria, che anche negli anni 90 ha subito grossi trasformazioni di carattere industriale, quindi queste situazioni di crisi le abbiamo già vissute e le abbiamo in qualche modo gestite anche adesso. Grazie allora per essere stato con noi, direttore generale di Banca Carige Ennio La Monica. Grazie a voi, buona giornata. Radio 24 Day. E Radio Day sulla crisi vi aspettano, ci aspettano ancora numerosi nel corso della giornata. Vi segnalo solo alle 8.20 speciale crisi con Oscar Giannino e Alessandro Milan, con Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, e tra gli altri Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, molte altre ospiti nel corso delle giornate oggi e domani. Noi ci fermiamo invece qui. Viola Bottoni, grazie in redazione, Peter Bescapè in regia che resta con noi, perché ci risentiamo già tra pochissimo con le ultime notizie di oggi di GR24. Buon martedì da Anna Migliorati. Prima edizione.